Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Per 15 giorni a Parigi non si parlò che del tentativo di furto compiuto con tanta audacia in casa del Conte. Il moribondo aveva firmato una dichiarazione che indicava Benedetto come suo assassino e la polizia fu invitata a sguinzagliare tutti i suoi agenti sulle tracce dell'omicida. Il coltello di Caderousse, la lanterna cieca, il mazzo di Grimaldelli e gli abiti, meno il panciotto, che non si ritrovò, furono consegnati alla polizia. Il corpo fu trasportato alla morgue. Villefort, chiamato a constatare il delitto, aveva reclamato per sé il caso e intrapreso l'istruttoria con quell'ardore appassionato che metteva in tutte le cause criminali in cui era chiamato a dare il suo giudizio. Ma erano già trascorse 3 settimane senza che le indagini producessero alcun risultato e si cominciava a dimenticare il tentativo di furto nella casa del conte per occuparsi dell'imminente matrimonio della signorina Danglars con il conte Andrea Cavalcanti. Quel matrimonio era quasi dichiarato e il giovane veniva ricevuto in casa del banchiere come fidanzato. Alcuni avevano altresì tentato di far nascere dei dubbi al giovane sulla solidità della posizione del suo futuro suocero, che da qualche tempo subiva in borsa ripetute perdite, ma il giovane, con disinteresse e fiducia encomiabili, respinse tutte quelle insinuazioni delle quali ebbe la delicatezza di non dire neppure una parola al barone che, da parte sua, adorava il conte Andrea Cavalcanti. Non era però così per la signorina Danglars. Nel suo odio istintivo contro il matrimonio, aveva accettato Andrea come mezzo per allontanare Morcerf, ma ora che Andrea si avvicinava troppo, incominciava a provare per lui una visibile repulsione. Forse il barone se ne era reso conto, ma aveva fatto finta di non accorgersene. Intanto, la dilazione chiesta da Beauchamp ad Albert era quasi trascorsa. Una mattina, Albert fu svegliato dal suo cameriere che gli annunciò Beauchamp. Vestitosi velocemente, discese. Lo trovò che passeggiava avanti e indietro. Alla sua vista Beauchamp si fermò. «E il fatto che vi presentiate in casa mia senza attendere la visita che contavo di farvi proprio oggi, mi pare di buon auspicio, signore», disse Albert. «Orsù, dite, presto! Devo stendervi la mano dicendo, Beauchamp, confessate un torto e conservate un amico, o devo semplicemente domandarvi quali sono le vostre armi?» «Albert», disse Beauchamp con una tristezza che stupì il giovane, «sediamoci prima e parliamo». «Ebbene», domandò Morcerf con impazienza, «la notizia era vera, amico mio». «Come? Quell'ufficiale francese?» «Sì». «Quel Fernand?» «Sì». «Quel traditore che consegnò al nemico i castelli dell'uomo presso il quale era al servizio?» «Perdonate, amico mio, ma devo dirvi che quell'uomo è vostro padre». Albert fece un movimento furioso per lanciarsi addosso a Beauchamp, ma questi lo trattenne, più con la dolcezza dello sguardo che con la fermezza della mano. «Prendete, amico mio», disse cavando di tasca un foglio. «Eccovi la prova». Albert aprì il foglio. Era un attestato di 4 notabili di Giannina, che provavano come il colonnello Fernand Mondego, colonnello istruttore al servizio del visir Ali Tebelin, avesse ceduto il castello di Giannina in cambio di 2000 borse. Le firme erano legalizzate dal console. Albert vacillò e cadde sopra una sedia. Questa volta non c'era più alcun dubbio. Il nome della sua famiglia era indicato a chiare lettere. Così, dopo un momento di silenzio e di dolore, il cuore gli si gonfiò. Si inturgidirono le vene del collo e dagli occhi gli sgorgò un torrente di lacrime. Beauchamp, che aveva guardato il giovane con profonda pietà mentre cedeva al parossismo del dolore, si avvicinò a lui. «Albert», gli disse, «queste prove, queste rivelazioni, questi attestati che io solo possiedo, volete che scompaiano? Volete che questo terribile segreto resti fra voi e me? Credete nella mia parola d'onore? Il segreto non uscirà mai dalla mia bocca. Lo volete? amico mio. Albert gettò le braccia al collo di Beauchamp. Ah, nobile cuore, gridò. «Ho deciso di abbandonare Parigi», disse Montecristo ad Albert, che era venuto a fargli visita. «Venite con me, Visconte. Mi farete compagnia». «Sì, volentieri. Ma dove andremo?» «Al mare, Visconte. Al mare». «Io sono un marinaio, sapete. Da bambino sono stato cullato fra le braccia del vecchio oceano. Amo il mare come si può amare un amante. E soffro se sto a lungo senza vederlo». «Accetto. Vado ad avvertire mia madre e sono ai vostri ordini». Il viaggio si compì con estrema celerità. I 32 cavalli divisi in 8 posti di cambio percorsero 47 leghe in 8 ore. Arrivarono alle 2:30 del mattino. Albert fu condotto nel suo appartamento, dove trovò pronti un bagno e la cena. Tutta la notte fu cullato dal mormorio malinconico delle onde. Verso la sera del terzo giorno, Albert vide, guardando dalla finestra, il suo cameriere. «Florentin qui!» gridò balzando sulla poltrona. «Che sia ammalata mia madre!» E si precipitò verso la porta della camera. Montecristo lo vide accostarsi al cameriere, che, tutto ansante, tolse di tasca un plico sigillato. Conteneva una lettera e un giornale. «Conte», disse Albert rientrando, «vi ringrazio dell'ospitalità. Avrei voluto goderne più a lungo, ma è necessario che torni a Parigi. Forse vi parrà insensata la mia partenza, ma leggete queste poche righe e capirete la mia disperazione». «Quell'ufficiale francese al servizio di Ali Pascià di Giannina, di cui parlò 3 settimane fa il giornale L'Imparsial, e che vendette ai turchi non soltanto i castelli di Giannina, ma anche il suo benefattore, si chiamava in quell'epoca Fernand. come ha detto il nostro onorevole collega. In seguito ha aggiunto al suo vero nome un titolo di nobiltà e un nome di terra. Oggi si chiama signor Conte di Morcerf ed è membro della Camera dei Pari. In tal modo, dunque, il terribile segreto che Beauchamp aveva seppellito con tanta generosità ricompariva come un fantasma armato, e un altro giornale, crudelmente informato, l'aveva pubblicato il giorno dopo la partenza di Albert per la Normandia. Poche righe che per poco non fecero diventar pazzo il giovane. Alle 8 del mattino seguente, Albert piombò come un fulmine in casa di Beauchamp. «Mio povero amico, vi aspettavo», disse Beauchamp. «Non starò a dirvi, Beauchamp, che persuaso della vostra lealtà e onestà, non penso che abbiate parlato a chi che sia di tutto ciò, amico mio. D'altra parte il messaggio che mi avete spedito è una prova del vostro affetto, per cui non perdiamo tempo in preamboli. Dovete ragguagliarmi in tutti i dettagli sulla storia di questo abominevole tradimento». E Beauchamp raccontò al giovane schiacciato dal peso della vergogna e del dolore i fatti che racconteremo in tutta la loro semplicità. Due giorni prima, l'articolo era comparso in un giornale che non era l'Imparzial, e ciò conferiva maggiore gravità alla cosa, in quanto era un giornale molto diffuso e appartenente al governo. Beauchamp corse alla direzione del giornale. «Per che cosa venite?» chiese il direttore. «Per l'articolo su Morcerf». «Ah sì, davvero? Non è un articolo curioso?» «Tanto curioso che correte il rischio di essere citato per diffamazione, mi pare, e di subire un processo molto pericoloso». «Niente affatto. Con la notizia abbiamo ricevuto tutti i documenti, comprovanti la sua veridicità. E siamo perfettamente convinti che il signor di Morcerf non potrà replicare. D'altra parte, è un servizio che si rende al paese, denunciando i nomi di coloro che sono indegni degli onori che godono». Beauchamp capì che non c'era più rimedio e uscì disperato per mandare un corriere a Morcerf. Ma ciò che non aveva potuto scrivere ad Albert, poiché le cose che stiamo per raccontare avvennero dopo la partenza del corriere, è che alla Camera dei Pari, in quello stesso giorno, si era manifestata e regnava una grande agitazione tra i diversi gruppi di quell'alta assemblea solitamente molto tranquilla. Tutti erano arrivati prima dell'ora e discorrevano del sinistro avvenimento che stava per catturare l'attenzione del pubblico e per fissarla sopra uno dei membri più conosciuti di quell'illustre consesso. Quando Fernand Morcerf entrò, la seduta era già aperta da una mezz'ora. Quantunque fosse ignaro della caduta e di conseguenza non avesse cambiato il suo contegno, pure agli occhi di tutti parve più superbo del solito, e la sua presenza, in quell'occasione, parve così provocante a quell'assemblea tanto gelosa del proprio onore, che tutti la considerarono come una mancanza di riguardo, molti come una bravata, alcuni come un insulto. Era evidente che tutta la Camera ardeva dal desiderio di iniziare la discussione sull'accaduto. Finalmente, uno di quegli onorevoli pari, nemico dichiarato del conte di Morcerf, salì alla tribuna con una solennità che preannunciava il momento tanto atteso. Terminata la lettura dell'articolo, concluse chiedendo che fosse istituita una rapida inchiesta per smascherare la calunnia, prima che il tempo la ingigantisse e per ristabilire il signor di Morcerf nel posto in cui la pubblica opinione l'aveva collocato da lungo tempo. Il presidente mise ai voti l'inchiesta e si decise che avrebbe avuto luogo. Al signor di Morcerf fu chiesto quanto tempo gli occorresse per preparare la difesa. «Signori pari», rispose Morcerf, «non è con il tempo che si respinge un attacco come quello che oggi mi viene diretto da nemici sconosciuti. Mi metto fin d'oggi a disposizione della Camera». Thank you. Il conte di Morcerf incominciò la sua difesa. Produsse dei documenti comprovanti che il visir di Giannina lo aveva, fino all'ultima ora, onorato della sua fiducia, avendolo incaricato di un negoziato di vita e di morte con lo stesso sultano. Mostrò l'anello, segno di comando, con il quale Ali Pascià sigillava solitamente le sue lettere, e che questi gli aveva dato affinché potesse al suo ritorno, a qualunque ora del giorno o della notte, arrivare fino a lui, fosse anche stato nell'harem. Disgraziatamente, le trattative erano andate a vuoto, e quando fu di ritorno per difendere il suo benefattore, questi era già morto. Ma, continuò il conte di Morcerf, era tanto grande la sua fiducia che Ali Pascià, morendo, gli aveva affidato la sua favorita e la figlia. Frattanto, il presidente gettò distrattamente gli occhi su una lettera che gli era stata portata, e le prime righe attirarono tutta la sua attenzione. Le lesse, poi le rilesse, e fissando gli occhi sul signore di Morcerf: «Signor Conte», disse, «voi ci avete detto che il visir di Giannina vi aveva affidato sua moglie e sua figlia?» «Sì, signore», rispose Morcerf, «ma in ciò, come in tutto il resto, la sventura mi perseguitava. Al mio ritorno, Vasilichi e sua figlia Aide erano scomparse. Le conoscevate?» «La mia intimità con il Pascià e la somma fiducia che aveva nella mia fedeltà mi avevano permesso di vederle più di 20 volte. Avete idea di ciò che sia stato di loro?» «Sì, signore. Ho sentito dire che erano state vinte dal dispiacere e forse anche dalla miseria. Io non ero ricco. La mia vita era irta di grandi pericoli e con mio sommo dispiacere non potei mettermi a cercarle.» Il presidente aggrottò impercettibilmente le sopracciglia. «Signori», disse egli, «voi avete ascoltato e seguito il conte di Morcerf nelle sue spiegazioni. Signor conte, potete, in appoggio alle vostre affermazioni, indicarci qualche testimone?» «Ahimè no, signore», rispose il conte. «Tutti quelli che circondavano il visire, che mi hanno conosciuto alla sua corte, sono morti o dispersi. Solo io, almeno credo, dei miei compatrioti sono sopravvissuto a quella spaventosa guerra. Non ho che le lettere di Ali Tebelin, e le ho poste sotto i vostri occhi. Non ho che l'anello, pegno della sua volontà, ed eccolo. Ho infine la prova più convincente che posso fornire, cioè l'assenza, dopo una denuncia anonima, di qualsiasi testimonianza contro la mia parola d'onore e la purezza di tutta la mia vita militare.» Un mormorio di approvazione corse per tutta l'assemblea. «Signori», disse il presidente, «e voi, signor conte, non sarete contrari, presumo, ad ascoltare un testimone importantissimo, a quanto egli assicura, che si presenta spontaneamente. Questo testimone, non ne dubitiamo, dopo ciò che ha detto il conte, potrà provare la perfetta innocenza del nostro collega. Ecco la lettera che ho ricevuto a questo proposito.» E lesse la lettera seguente: «Signor presidente, io posso fornire alla commissione d'inchiesta incaricata di esaminare la condotta in Epiro e in Macedonia del signor tenente generale conte di Morcerf le informazioni più esatte. Io ero sul luogo alla morte di Ali Pascià. Ho assistito ai suoi ultimi momenti. So che cosa è avvenuto di Vasilichi e di Aide. Mi metto a disposizione della commissione e, anzi, chiedo l'onore di essere ascoltata. Sarò nel vestibolo della camera quando vi sarà consegnato il presente biglietto.» Thank you. Il presidente pregò la sconosciuta di alzare il velo e si poté allora vedere una donna vestita alla greca, d'una bellezza sorprendente. «Io mi chiamo Aide, figlia di Alite Belen, pascià di Giannina, e di Vasilichi, sua moglie prediletta», disse la giovane donna. «Signora», riprese il presidente dopo essersi inchinato con rispetto, «permettetemi una semplice domanda che non è un dubbio e che sarà l'ultima. Potete dimostrare l'autenticità di quanto dite?» «Lo posso, signore», disse Aide togliendo di sotto al velo una borsa profumata. «Ecco l'atto della vendita mia e di mia madre per la somma di 1000 borse che fece al mercante armeno El Kobir, l'ufficiale francese, che nel suo infame mercato con il sultano si era riservato come bottino la figlia e la moglie del suo benefattore. Io, El Kobir, mercante di schiavi e fornitore dell'harem di Sua Altezza, dichiaro di aver ricevuto, per consegnarlo al sublime imperatore, dal signor Conte di Montecristo, uno smeraldo stimato 2000 borse come prezzo di una giovane schiava cristiana dell'età di 11 anni di nome Aide e figlia riconosciuta del defunto signore Alite Belen, pascià di Giannina, e di Vasilichi, sua favorita, la quale mi era stata venduta 7 anni fa con sua madre, morta all'arrivo a Costantinopoli da un colonnello francese al servizio del visir Alite Belen, chiamato Fernand Mondego. Fatto a Costantinopoli, con l'autorizzazione di Sua Altezza l'anno 1247 dell'Egira. Firmato El Kobir. A quella lettura seguì un terribile silenzio. Il conte aveva lo sguardo fisso, suo malgrado sua idea. Era di fiamme e di sangue. «Signor di Morcerf», disse il presidente, «riconoscete voi la signora per la figlia di Alite Belen, pascià di Giannina?» «No», disse Morcerf facendo uno sforzo per alzarsi. «È una trama ordita dai miei nemici». Aide, che teneva gli occhi fissi verso la porta come se aspettasse qualcuno, si voltò verso Morcerf e mandò un grido terribile. «Tu non mi riconosci?» disse. «Ebbene, io riconosco te. Tu sei Fernand Mondego, l'ufficiale francese che istruiva le truppe del mio nobile padre. Sei tu che hai venduto i castelli di Giannina. Sei tu che, inviato a Costantinopoli per trattare direttamente con il sultano della vita e della morte del tuo benefattore, hai portato un falso decreto che accordava grazia completa. Sei tu che con quel documento hai ottenuto da mio padre l'anello che doveva farti ubbidire da Selim, il guardiano della polveriera. Sei tu che hai pugnalato Selim. Sei tu che hai venduto mia madre e me al mercante El Kobir. Assassino! Assassino! Assassino! Tu hai ancora sulla fronte il sangue del tuo padrone. Guardate tutti!» Queste parole furono pronunciate con tale impeto di verità che tutti gli occhi si fissarono sulla fronte di Morcerf, alla quale egli stesso portò la mano, come se vi avesse sentito tiepido ancora, il sangue di Ali. «Voi riconoscete dunque nel signor Conte di Morcerf quello stesso ufficiale Fernand Mondego?» «Sì, lo riconosco», gridò Aide. «Oh, madre mia! Tu mi hai detto, tu eri libera. Tu avevi un padre che ti amava. Tu eri destinata ad essere quasi una regina. Guarda bene quest'uomo. È lui che ti ha fatta schiava. È lui che ha fatto innalzare in cima un'asta alla testa di tuo padre. È lui che ci ha vendute. È lui che ci ha tradite. Guarda bene la sua mano destra, quella che ha una larga cicatrice. Se tu ti dimenticassi il suo viso, lo riconoscerai da quella mano, nella quale sono cadute a una tutte le monete d'oro del mercante El Kobir». Ogni parola cadeva come una pugnalata su Morcerf e strappava una parte della sua energia. Alle ultime parole nascose istintivamente nel petto la mano, segnata infatti da una ferita, e ricadde sul seggio, inabissato, in una cupa disperazione. Thank you.